Noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Buongiorno a tutti amici miei, parafrasando l'amico Gianpaolo Musumeci che avete sentito prima, se volete del politically correct questo programma non va per voi. 800240024, Claudia Schiattone il nostro autore, Gianmarco Fernandi in regia, c'è anche Giulia Auricella che saluto, e tra poco arriva qui per Luigi Pardo e vi farò la radiocronaca diretta del suo ingresso. E intanto qualche tema di discussione, perché tanti ce ne sono sul tavolo e tanti ce ne saranno domani, perché questa sera il Napoli gioca, come sapete, il ritorno dei preliminari di Champions League, che vale un sacco di quattrini e molto altro. Gioca a Nizza, parte con due gol di vantaggio. Saranno in campo Sneijder e Balotelli e questi sono, insomma, questo è affascinante. Intanto c'è Sarri. A loro ci credono giustamente, perché il risultato della partita d'andata lascia aperto tutte le soluzioni. Ci credono giustamente perché sono una squadra forte. Una parte di responsabilità è nostra, se ci credono, perché alla partita d'andata abbiamo avuto tantissime occasioni e ne abbiamo sfruttate solamente due. Però anche noi pensiamo di essere una squadra forte e ci crediamo. Beh, mancherebbe non crederci da una parte e dall'altra. Poi se parti con due gol di vantaggio pure meglio, sarà incontentabile. Del Napoli comunque parliamo dopo, per assaggiare questa vigilia dopo la borsa. Intanto sempre 800240024, arriva a parte, poi parleremo anche di TV, perché oggi è molto interessante, molto, molto fresco, sono usciti i dati di ascolto della prima giornata di campionato, che raccontano cose molto molto interessanti. Intanto, ovviamente, a proposito di TV, c'è anche quella in campo di cui tanto abbiamo discusso e di cui un sacco ho paura discuteremo nel corso della stagione. C'è la VAR, ieri ha parlato Giancarlo Antonioni, c'è la presentazione di Simeone, come sapete, c'è Canici al Milan, eccetera, c'è questo giro di attaccanti. La Fiorentina è stata una delle squadre penalizzate dalla prima giornata di VAR nella storia del nostro calcio, e Antonioni ci è andato neanche troppo leggero con Tagliavento. Convalidare il rigore all'Inter, ci poteva stare, non ci poteva stare, però il fatto di non andare nemmeno a vedere dalla famosa VAR il fallo che è stato fatto su Giovanni, quello mi ha un po' dato fastidio. Questo atteggiamento non è idoneo e non ha rispettato una squadra che era andata a Milano per giocarsi la sua partita. 800240024, il numero verde, attenzione, radiocronaca diretta, si apre la porta, entra in camicia azzurra e jeans nero, abbronzato come un vigliacco. Sì, pantaloni cotone blu, cioè. No, che altro fa come tra i miei piedi? Però tutto a posto. Pierluigi Pardo, aspettate che lo saluto in diretta, ciao, che non lo vedo da un po'. Allora, in grande forma, molto abbronzato come avete visto ieri sera a Tiki Taka. Bene, bene. Com'è andata? Beh, insomma, ieri è stata una serata un po' così, perché bar. In mezzo in mezzo alla registrazione è arrivata la notizia di Ischia, quindi insomma, poi nella seconda parte è stato un po' difficile, diciamo, mantenere il tono, perché poi vabbè, c'era De Giovanni, c'era Auriemma, c'era anche proprio gente che è fisicamente legata a Napoli, lo stesso Mughini è non dico cittadino onorario, ma ci va spessissimo durante l'estate, quindi insomma. Quindi lì bisogna. No, ma poi in generale è un fatto proprio di mood, di clima, di complessivo. Questo è ovvio. Passa un po' la voglia. No, ma siamo veramente la voglia di parlare. Prendi fiato, perché intanto io ho cominciato a lanciare dei messaggi nella bottiglia. Ovviamente stasera gioca a Napoli, due gol di vantaggio, Sneijder e Balotelli, tema interessante. Ma poi c'è Antonio Giordano dopo la borsa, quindi ne parleremo ampiamente. C'è Antonioni che ci ha dato abbastanza arrabbiato, in sì, punta di fioretto, diciamo, con Tagliavento. E poi c'è un tema che mi intriga tantissimo, che è quello dei mal di pancia. e non ti dà solo i Bravos, ma sai, la stagione è tipica, mal di pancia, raffreddore, certificati cagotto, medici, sì, sì, certificati, questa qui è l'ultima, l'ultima frontiera, c'è perché... c'è una sperequazione del potere dei giocatori sulla società che è enorme, no, questo, no, è, no, questo è da Bosman in poi è cambiato da un certo punto di vista, è anche giusto, perché sia pure da straprivilegiati, strapagati, comunque sono lavoratori, quindi questo voglio dire, se uno difende un principio, il lavoratore è ovvio che possa so, avere che... diciamo delle prerogative o dei vantaggi, o comunque insomma che la sua idea su dove andare a vivere e a lavorare possa essere importante. Ma questo vale ovviamente per chi guadagna 1.000 euro al mese, o per chi ne guadagna 1.000 al minuto. È chiaro che stiamo parlando ovviamente di lavoratori diversi. Però ragazzi, il certificato medico è veramente l'ultima frontiera. Sai medico che Kalinic l'ha presentato perché è stressato dal mercato, stessa cosa ha fatto Keita. Ma guarda, le società devono appunto cercare, secondo me, nei limiti del possibile, anche se non è facile perché rischi di perdere i soldi, di tenere botta, perché non ci sono molte alternative. Lo titolo, da questo punto di vista, per esempio, è uno che ci prova, poi probabilmente alla fine cederà, perché chiaramente piuttosto che perdere a zero un giocatore così importante, magari tra sei mesi preferisci prendere, no, meglio l'uovo oggi che la gallina domani. Ma non, guarda, dallo titolo possiamo aspettarci di tutto, dare soldi e vedere Cammello, perché come sai perfettamente è riuscito a cedere un giocatore di 31 anni in scadenza di contratto l'anno prossimo, forte finché vuoi, gran giocatore, enorme giocatore, ma a 20, sì, a un ventello. Però quello secondo me rientra nell'ambito delle trattative, della normale dialettica che esiste fra società, e secondo me tutto sommato, ripeto, quella cifra lì, per la quantità di soldi che vedo in giro, è una cifra che ci sta, perché Biglia grandissimo giocatore, ce ne sono pochissimi di quel livello, quindi la Lazio l'ha venduto bene, certamente ha capito che non c'erano le possibilità di trattenerlo, ha massimizzato e già per si è visto con Lucas Leiva. Per il Milan era molto importante, molto, sì, fondamentale, importante. E quindi alla fine è una win-win, mi verrebbe da dire, quasi convenuta a tutti e due. Assolutamente, no, ma come prototipo di giocatore al Milan serviva Biglia, al Milan serviva quello che è arrivato ieri, cioè Kalinic, come prototipo di giocatore. Poi sono arrivati quelli che il Milan voleva, pagandoli la cifra che serve. Torniamo al mal di pancia, Stevie, perché abbiamo parlato Gasperini. Povero. Lui ce n'ha avuti parecchi lì. Guarda. Anche quello che ha fatto Conti, insomma, i primi giorni. È il calcio moderno. Il logorio della vita moderna, Ernesto Calaindri con il Cinar e Gasperini. Questa è una situazione individuale di Spinazzola, è chiaro che per noi è penalizzante perché era un giocatore sul quale contavamo. In tutti i modi, come va a finire, sia se va alla Juve sia se rimane, avrà perso qualcosa. E lei sa cosa significano quelle chiamate? Sì, sì, ma anche lì poi c'è tutto un mondo dietro che andrebbe rivisto. I ragazzi alla fine rispecchiano quello che fanno i grandi, se noi gli insegniamo a comportarsi in un certo modo, loro poi dopo non ci stupiamo se si comportano altrettanto. Quindi è un mondo che è venuto a mancare qualunque tipo di correttezza, quindi è su questo. Ci tappiamo il naso un po' tutti, andiamo avanti, facciamo finta di niente. Hai capito? Ci tappiamo il naso un po' tutti, andiamo avanti, facciamo finta di niente. Gasperini dice. Gasperini vive un'estate agrodolce, dolce perché deve essere fiero, orgoglioso di quello che ha fatto assieme ai suoi ragazzi l'anno scorso, e perché secondo me l'ha dimostrato anche la partita dell'altro giorno. L'Atalanta secondo me ha ottime alternative. Non ripeterà secondo me il campionato dell'anno scorso, ma finisce nella parte sinistra della classifica, sono abbastanza convinto di questo. E amara perché insomma lo so, ti riportano ha cresciuto via, dei figli, sì, ma il modo, il punto vero è il modo. Eppure è vero che non è facile, non è facile. Questa è un'epoca di velocità, ma vale per tutti, vale pure per me, per te, cioè voglio dire, quando ti si crea un'opportunità probabilmente non abbiamo più proprio mentalmente la pazienza di aspettare. Io sono 2-3 mesi fa ti dicevo che sono chic, un altro anno alla Samp, il primo esempio mi viene in mente, un altro anno alla Samp giocando regolarmente 38 partite, se lo poteva fare. Un discorso che ho fatto con Donnarumma quando sembrava che andasse al Real Madrid, cioè poi ha chiuso un accordo ovviamente anche molto, molto importante dal punto di vista economico in un Milan che si è strarafforzato da quel giorno, quindi veramente alla fine anche quella è stata una vittoria per lui e per la società. Certo. Però è questo, no? Che c'è una velocità anche da parte di questi ragazzi di diventare, di andarsi a prendere il contratto giovani, capisco, poi, non è che... Ma poi per la società, la velocità, per la società che vende, la velocità può essere anche un vantaggio, perché monetizzi subito, quindi... Sì, in certi casi è un vantaggio, poi è chiaro che non li puoi vendere tutti, quindi il progetto di una società come l'Atalanta, o probabilmente anche nella testa di Lotito, dopo il campionato bellissimo dell'anno scorso, della stessa Lazio, è... magari qualcuno lo do via, qualcun altro lo tengo. Sì, Papu, certo. Gomez, per esempio, ha fatto una scelta importante e io credo che si toglierà tante soddisfazioni. Certo. Allora, io sono molto curioso di scavallare il traffico, perché poi ti propongo un confronto sul tuo terreno di caccia, che è quello della TV, perché sono usciti dati d'ascolto delle partite di Serie A, ci sono dati molto interessanti. Sei pronto? Sì, non li so neanche, quindi no, sono curiosissimo. Io te li faccio vedere. Vai. Adesso te li faccio vedere mentre ascoltiamo il traffico. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua! Tutti convocati. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, mentre Sergio scrive un WhatsApp, fossi a proposito del tema di prima, di mal di pancia, fossi per caso Spinazzola andrebbe a Torino a giugno senza giocare un minuto, è ora di piantare qualche paletto, Sergio da Bergamo. Però dati televisivi sulla prima domenica del calcio e della VAR, Pierluigi Pardo, raccontali e commentali. Non lo so, me l'hai appena dati, mi sembrano in linea con l'anno scorso. Ci sono la partita più vista in valore assoluto è Juve Cagliari, che ha fatto 1.310.000, sì. 737.000 Sky, 573.000 premium. Poi c'è Atalanta Roma 1.295.000, poi c'è Hellas Napoli 1.131.000. Insomma, in linea con l'anno scorso. A Udine, no, il dato di Udine, diciamo, più complessivo, adesso il dato di Udine, è interessante e divertente notare che le due partite delle 18, Juve Cagliari e Atalanta Roma, hanno sfiorato il 12% d'ascolto totale, che, considerato che sono prodotti pay, ovviamente, certo, quindi a pagamento, ti raccontano, insomma, quanto fossero seguite. Il dato di Udine è divertente perché c'erano più spettatori allo stadio che davanti alla TV. Una grande rivincita, 13.000-7.000, anche se ti dico la verità, questo l'auditelo, ovviamente una rilevazione molto precisa, molto scientifica, ma ovviamente sui numeri molto piccoli è difficile. È chiaro. Lì basta però mezzo decoder e passi da 7 a 10.000. Però è molto curioso e in qualche modo è anche piacevole e romantico. Io quello che ti confermo, che tutti i miei direttori e tutte le persone con cui ho lavorato, da Brandi a Brachino a Corcione prima, a Federico Ferri Sky, te lo potranno confermare: nessuna persona che fa televisione sogna gli stadi vuoti. Gli stadi pieni sono un valore, al di là del fatto che sono un valore per noi che siamo prima di tutto appassionati di calcio, ma poi sono anche un valore, sì, proprio di prodotto, nel senso che anche dal punto di vista di chi guarda la partita, facciamo così. C'è niente di peggio di uno stadio vuoto. Allora, un professore. Antonio Di Pollina, buongiorno. Allora. Il professore, vabbè. Un professore. Buongiorno. Allora, come va? Allora, mi dica lei, totalmente libero, professore di Repubblica, di molto altro, che cosa ne pensa di Pierluigi Pardo? Così. Io amo Pardo, ma amo soprattutto il suo universo citazionista. Lui è uno di citazioni. Ne fa molte, ma la cosa che anni fa mi aveva sconvolto era che le capiva pure, cioè, non sopravvalutare, è come Lotito, non esageriamo. Non nel senso così, cioè cose difficili da così, con cui ci dilettavamo, e lui, che è così giovane peraltro, capiva, interveniva, interloquiva e tutto, e questo me lo ha reso immediatamente simpatico. Sentiamoci più spesso, perché per la mia autostima devo dire Di Pollina dice queste cose una volta a settimana. Ma siamo al politico lì corretto, cosa mi vengono in mente canzoni di continuo, soprattutto canzoni di continuo. Posso, che canzone vuoi? No, vabbè, non lo so. Che la faccio mettere? Luca lo stesso, adesso, perché ho visto Luca, che c'è un messaggio di un Luca di Bologna, mi è venuto in mente Luca Carboni, dai. No, ma io a professor Di Pollina volevo chiedere anche un commento, appunto, su questi dati che prima Pierluigi Pardo ha enunciato sulle partite che abbiamo visto domenica. C'è questa curiosità di Udine, del maggior numero. Se ho ben capito, è in controtendenza, cioè non è un fatto che c'era più gente allo stadio che in TV, e quindi dovrebbe essere quasi l'esempio più romantico, più commendevole. Sì. Esattamente, da questo punto di vista. Dopodiché aspetterei la stagione vera, che parte ovviamente dopo la sosta e quando tutto va a regime, curiosità se ne avverte. Mi piacerebbe che ritornasse a essere un po' di più la curiosità vera sulla partita e non sullo scatenarsi su tutto immediatamente via tastiere, commenti e tutto su tutto quello che vi succede di contorno e così via, ma credo che ormai insomma, su questo è inevitabile, Antonio, dobbiamo arrenderci. Sì, Ma no, ma magari possiamo anche non arrenderci, nel senso, poi voglio dire, i social network, come tutte le cose, li puoi usare bene. In queste ore abbiamo visto quello che è successo a Ischia, ci sono stati tanti esempi di utilità dei social network, no? Cioè di gente che ha avuto informazioni pratiche utili. Quindi social network non è diventato soltanto uno strumento di polemica, demonio, no, quindi voglio dire, insomma, siamo io, guarda, quello che penso è che stadio e televisione non siano rivali, non siano, anzi, un po' per quello che dicevo prima, un po' perché in realtà è tutto il fenomeno calcio che se cresce fa bene a tutti, se gli stadi migliorano, se la gente ci va più volentieri, poi magari la settimana dopo non vanno allo stadio ma guardano la partita in televisione. Chiaro, se il prodotto televisivo è bello, ti invoglia andare allo stadio la settimana dopo. No, se ma il campionato poi è equilibrato. Allora, voi che siete uomini di televisione, io no, sapete o vivete in questo mondo, di questo mondo, sapete perfettamente questa regola, che potete spiegare più chiaramente voi, quanto accennavi tu prima, no? Ogni direttore di testata ti dice che lo stadio pieno è fondamentale, perché se tu vedi un qualunque spettacolo con uno stadio pieno, scenicamente ti fermi almeno un secondo a guardarlo, altrimenti cambi canale. Conferma di Pollina? Ma assolutamente, la sensazione di dire ma io sto qui guardando una cosa che là quelli che sono a 100 metri non sono andati a vederla, perché dovrei vederla io se non importa nessuno a quelli là. Poi da questo punto di vista, da noi il discorso ha preso subito quella piega, e io mi ricordo, non so, una delle primissime, però doveva essere un Lecce qualcosa proprio, che casualmente, parlo di 20 anni fa quasi, sono entrato in un bar e ho visto 38 vecchietti almeno assiepati in una stanza che si stavano guardando una partita che davvero a quel punto neanche allo stadio c'erano tutti quegli spettatori. C'era, siamo un paese fatto che preferisce molto il discorso televisivo. Dopodiché ci sono le eccezioni. Domenica ci siamo esaltati tutti perché sono tornati è tornato un sacco di gente a San Siro, per dire. Certo, quindi, certo. Quindi dipende dalle cose. E se poi vogliamo dire che un giorno si arrivasse a qualche partita in meno così alla Udinese Chievo, tanto per intenderci, nel senso di ridurre in maniera razionale il numero di squadre di Serie A, forse tutto inizia a prendere una piega diversa. Anche se su questo punto, Antonio, io so che Pierluigi non è così d'accordo da abito di calcio, no? Perché tu dici una partita al giorno toglie il medico di torno. Io penso che le partite inutili siano il vero problema. Cioè, secondo me, sai come la penso? Io con 20 squadre vorrei 4 retrocessioni, ma non perché sono cattivo, perché penso che l'anno scorso poi c'è stato questo miracolo del Crotone nelle ultime giornate, ma sembrava un campionato a metà stagione chiuso, e quindi c'erano 12-13 squadre. Forse no, 9-10 squadre assolutamente che si giravano i pollici. Ecco, sì. Quindi questo non è accettabile, secondo me. E quindi, appunto, o torni a 18 oppure fai 4 retrocessioni. In generale, io guarderei pure la Serie C bulgara. Cioè, non è che guarderei quando posso, cioè, mi fermo la Serie C gallese, imbarazzanti. Sì. Quindi, però, in assoluto è chiaro che la quantità degli eventi in qualche caso ne diminuisce la sacralità. Non ci possono essere in un anno 50 finali di Champions, ce n'è una e vuoi vedere quella perché è quella. Perché è quella. E poi, appunto, più cresce anche nell'importanza delle partite, si assiste a una crescita di alcuni picchi di eventi rispetto a tutto il resto. È un po' quello che succede a livello internazionale, dove ci sono ormai 20 club che dominano. 20 anni fa o 30 anni fa era tutto molto più equilibrato, per cui il Verona poteva vincere il campionato, la Samp poteva vincere il campionato, era bellissima questa cosa. A questo proposito, l'ultimo argomento per Antonio di Ippolita. Poi l'Inter, però per quanto mi riguarda, allora, associazione di immagini e di idee, televisione, calcio, Verona, Sampdoria che vincono lo scudetto, uguale VAR, no Antonio? Quante volte abbiamo sentito dire quando c'era il sorteggio libero, al Verona vinceva lo scudetto, e adesso con la VAR magari rivedremo Cagliari vincere lo scudetto. Toglietevelo dalla testa. Prima giornata della VAR, Antonio Di Pollina. Cosa vogliamo dire? Ti piace o non ti piace? Belle cose. Ha un fascino per cui perverso. Davanti alla televisione aggiunge cose per cui ci fa parlare di più, ci ci intriga, ci interessa, siamo pronti, come dicevo prima, non è necessariamente negativo quello che intendevo io, il fatto di avere molta più voglia di prima di commentare le cose, quindi da quel punto di vista nessun problema. Io continuo poi a invidiare un posto come l'Inghilterra, dove ho visto queste prime due giornate, secondo me sono successe anche nefandezze abbastanza forti, però poi si prende, si alzano, corrono, va, se devono fare polemiche dopo le fanno, ma bene o male il clima mi sembra molto più veloce e così via. Dopodiché andare a regime, come dicono gli esperti, con la VAR ci vogliono almeno 10 turni di campionato. Andare a regime significa vuol dire allenarsi sì, anche sì, per gli arbitri, E anche per noi che iniziamo a inanellare una serie di casistiche diciamo sufficiente. A me ha molto colpito, per esempio, Cernicchi domenica sera in TV e ha detto il fallo su Simeone, non, l'arbitro non è andato a vedere perché dalla VAR gli hanno detto in cuffia che in TV non si capiva niente e che quindi valeva quello che ha deciso lui. Beh, io ho fatto un mezzo salto perché da questo punto di vista io non l'avevo ancora interpretato. Quindi la VAR è un milione di cose tutte assieme e l'unica cosa che spero io è che non diventi solo un fatto di avere fortuna o avere sfortuna negli episodi che succedono, perché quello somiglierebbe abbastanza a quello che succedeva in passato. Se deve dipendere dal fatto che devi avere fortuna, che non ci devono essere episodi particolarmente così a partita, tanto valeva non mettere in piedi tutto questo ambaradà. Sì, poi si vuole la certezza del diritto, però rivolgersi altrove, no Piero? No, non c'è, c'è il fattore umano. Secondo me, comunque, a quel punto Tagliavento ha sbagliato non andare a vedere con i suoi occhi, avrebbe confermato secondo me la decisione, però questo fatto che non sia andato, secondo me, per come ci hanno spiegato la VAR in queste prime uscite, insomma, un po' stonato. In generale si è capito benissimo da Bologna-Torino ieri, attività che c'era un piccolo editoriale divertente di Chiambretti che diceva che VAR vuol dire vacanza rovinata per un tifoso del Torino, perché la mancata applicazione del VAR per colpa dell'arbitro che aveva già fermato il gioco gli ha rovinato evidentemente la prima giornata. E la certezza del diritto non ci sarà, la perfezione non ci sarà, un elemento di errore legato al gioco del calcio secondo me è anche bello, è anche romantico, poi certo quando tocca la tua squadra sei un po' meno felice. Poi Rizzoli ha già detto una cosa importante, esatto, che applicarla meno e keep calm con le interruzioni del gioco. No, quello, guarda, ti ricordo da quello che mi è piaciuto molto e spero che insomma continui, che non sia soltanto diciamo una luna di miele dell'inizio, è stato la gestione dei momenti di VAR da parte del pubblico, da parte dei giocatori. Sì, sono mancate le proteste, sono freschi ovviamente della Ramanzina, di Rosetti che gli ha spiegato che vengono ammoniti. Questo mi è piaciuto molto, cioè una delle paure tra virgolette che avevo era che fosse inapplicabile il VAR o la VAR perché per ordine pubblico, certo, perché certo. Può creare dei casini, e invece l'altro giorno da questo punto di vista andrà benissimo, al punto che Rizzoli dice che fra un po' faranno addirittura vedere le immagini negli stadi dove ci sono i maxi schermi. Va bene. Senti, volevi chiedere, prima di salutarlo e ringraziarlo, volevi chiedere di porre una cosa sull'Inter. Se Spalletti è l'uomo giusto. Allora, io mi sono sciroppato tutte le partite estive per provare a capirlo da subito, e anche con la mia combriccola di complici tifosi con cui dialogo quotidianamente, noi abbiamo avuto una sensazione molto buona da subito, proprio con atteggiamento come cosa che vedevamo in campo, anche se erano delle inutili amichevoli. Siamo partiti in questo modo. Sì, Spalletti deve essere un uomo giusto, anche perché di altre cose particolarissime non è che ne siano successe tante. Poi a fine campionato scopriremo che metteremo in fila i nuovi arrivi e diremo questo. Cioè, Borca Valero è ovvio che sono contento che ci sia, ma credo che il fattore Spalletti sia molto più certo, forte. Detto questo, l'ansia che ci sta già salendo per sabato prossimo è parecchio. Antonio, se non ricordo male, è uno dei pochi interisti non completamente murignani. Io mi ricordo una sua uscita, mi sbaglio? E mi aveva molto colpito perché devo dire, adesso non è che ci stiamo facendo i complimenti, è difficile per uno che è molto tifoso riuscire a conservare la razionalità di dire questo allenatore mi fa godere un casino, però non è esattamente la persona che mi piace di più al mondo. È così? Sì, è abbastanza così, e ancora adesso discuto selvaggiamente con appunto la combricola di qui sopra. Sei minoranza, hai perso, hai perso, riserva indiana. Sì, sì, viaggi in direzione ostinata e contraria, vedi il citazionismo. Ok, ma io mi riferisco solo al modo in cui è finita la storia con l'Inter medesima. A me quello non è andato giù e rivendico la libertà di pensare. Assolutamente. Grazie Antonio, a presto. Grazie a voi. Grazie davvero Antonio Di Polina. 800240024. Subito dopo la borsa, tocca anche a voi. Parleremo di Napoli, parleremo di tutto quel che vi pare. Poi c'è Marino. Tutti convocati. C'è Marino? No, non c'è Marino. In treno. Dov'è in treno? Ma oggi vado vicino a casa sua. Stasera. Vado vicino a Forlì. Ma non c'è. In treno dove? Un treno per dove? Vivente. Che canzone volevi? No, Luca lo stesso, mi era venuto in mente. Luca lo stesso, boh. C'è chi ama la sua terra e i suoi confini. Così manico. Patriottico. Esatto. Ci sono le borse però. Dopo. Okay. Va bene. Yes. Rilasciamo. Questo è il momento, sì, mi piace, è un momento musicale. Prima delle borse. Cosa serve l'amore? Dai, c'è borse. L'amore. Ad avere i soldi lì, Inzaghi. Ad avere i soldi lì, Pippo Gol. Ad avere i soldi lì, Inzaghi. Ok, Inzaghi. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. E mentre quel figaccione di Pierluigi Pardo qui con me, 800240024, finalmente Massimo da Torino, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere stato convocato. Volevo dire, ma io sono dalla parte di Lotito e di Gasperini, perché non possono comportarsi in questa maniera. Ma mi chiedevo, Tommasi, che dice sempre qualcosa per il calciatore, adesso non si sente a proposito di questo argomento. Sarà in vacanza. Come mai? Perché sarà in vacanza, no? Allora, no, non è in vacanza, perché è stato ribadito, anzi lo show. No, però sì, insomma, hai ragione, c'è poco da fare. Hai ragione, poi ripeto, come tutte le cose, come tutti i rapporti di lavoro, quindi dove c'è un'azienda e c'è un lavoratore, sia pure qui assolutamente privilegiato, lo diciamo mille volte, perché è ovvio che non sono lavoratori normali, però dal punto di vista del diritto lo sono, ed è giusto anche che lo siano. Posso andare anche all'INPS, assolutamente, il certificato non mi ricordo. Dico, le storie possono finire bene, ci si può comportare bene, ci si può stringere la mano, oppure ci si può comportare in maniera... Il punto è che tante scorretto. Volte sono gli stessi procuratori che invitano questi ragazzi a forzare un po' la mano, no? A fare un po' i furbetti, a andare a cercare lo strappo, cercare la rottura. Quello che è certo è che nessuna società può permettersi di tenere un giocatore che non vuole stare. Che non vuole stare. Quindi o la società è talmente forte a livello societario, a livello economico, a livello proprio anche di carisma dell'allenatore, di ambiente, da ricomporre certe situazioni. Ti ricordi Capello con Trezeguet tanti anni fa? No? Praticamente era un giocatore duro. Poi arriva un allenatore che ti piace, che ti convince, ti cambia. O lo stesso Spalletti con Perisic, o lo stesso Lotito, no? Perché Lotito è il più duro di tutti. Cioè, lui non molla una virgola, non molla un centesimo. Marco da Roma, chissà se laziale o romanista. No, in realtà nessuno dei due. Buon pomeriggio, grazie per la convocazione. Confesso di essere poco esperto e poco appassionato di calcio, ma vi ascolto non e è mi grave, aiutate un non sacco è grave. Per avere qualcosa da dire alla macchinetta del caffè, quindi aiuta tanto. Piuttosto faccio con questa premessa la considerazione. Sento parlare di Moviola in campo, adesso VAR o la VAR o il VAR che sia, da quando sono da 40 anni a questa parte. Non sarebbe stato meglio dopo tutto questo tempo fare qualcosa come succede per esempio nel tennis, cioè l'occhio di Falco. L'arbitro è il supremo direttore finale, e se qualcuno ha qualcosa da obiettare ha un 2, 3, 4 challenge da chiamare e poi da lì si vede, visto e considerato che così com'è. Sì, vabbè, football americano. Sì. Regolamentazione degli episodi è la direzione che ha spiegato Rizzoli, quindi limitato numero di episodi. Poi è sì, è il meccanismo che esiste in altri sport. Sì, insomma, ragazzi, la ricetta io non ce l'ho, la medicina non ce l'ho e non sicuramente il, diciamo, il VAR chiamata potrebbe, ha una sua, il fazzoletto per terra, ha una sua logica, nella, no? Nella, ha una sua logica, no? Ha una sua logica, il fatto che chiedi una un instant replay di qualcosa ci poteva anche stare, però ti ripeto, io non credo che l'altro giorno sia andata male. L'importante è che per me la cosa, e lo dimostra la prima giornata, la cosa più urgente da correggere è il discorso del fuorigioco. Sì, questo è evidente. Allora, parliamo un po' del Napoli. Sono curioso di vedere stasera, cioè mi affascina Balotelli e Sneijder contro il Napoli, due gol da rimontare, eccetera eccetera. Ci sono state le dichiarazioni d'amore di Balotelli per il Napoli e per Napoli, cui è particolarmente legato, chissà se un giorno lo vedremo lì. Sarri, che abbiamo sentito prima, dice: beh, scudamoci il passato, il risultato dell'andata 2-0. Dobbiamo scordarci del risultato della partita andata, non dobbiamo correre il rischio di avere un'interpretazione della partita che non è adatta alle nostre caratteristiche. Quindi noi domani bisogna entrare in campo con la mentalità della partita singola, altrimenti corriamo il rischio di andare a gestire un risultato, cosa non ci riesce benissimo, e ci scordiamo di giocare il nostro calcio, cosa invece solitamente ci riesce piuttosto bene. Allora, questo era Sarri, ci riesce piuttosto bene. Ok, io ho citato prima Sneijder e Balotelli, che sono curioso di vedere questa sera, due che conosciamo molto bene, Sarri ancora. Sneijder e Balotelli sono due giocatori, hanno una storia importante alle spalle, sono ancora abbastanza giovani per poter essere in piena efficienza fisica, quindi dobbiamo essere sicuramente ancora più bravi che all'andata a cercare di contenere al massimo le possibilità offensive del Nizza, e secondo me sono importanti. Sei curioso anche tu, no, di vedere Sneijder e Balotelli? Io sono curioso, francamente avrei preferito non vederli, nel senso che, okay. E soprattutto avrei preferito vedere il gol di Milik del 3-0, perché più, insomma, più tranquillo, insomma. Sì, anche se, insomma, dai, ci vuole però una partita attenta, una buona partita. Non serve una partita clamorosa, serve una buona partita, ci vuole attenzione. Beh, una squadra adulta. Sì, il 2-0 è un bel vantaggio, non c'è che dire, il Napoli ha grandi qualità offensive, il fatto che avrà inevitabilmente degli spazi mi rende ancora più ottimista. È chiaro che rispetto alla partita dell'andata il Nizza perde giocatori importanti, gli squalificati, così lo e Plea, però... Insomma, però se magari Balotelli gliela inzicca, gliela impasta dopo 10 minuti, allora cominciamo a vedere una partita differente, un confronto differente. Mi auguro di no. Io neanche. Evitiamo volentieri. Però insomma, dai, bisogna essere, non è che adesso, siccome c'è l'adrenalina della partita, si deve diventare improvvisamente preoccupati. Io penso che il Napoli abbia le spalle larghe. Sì, è anche se è anche riposato emotivamente, dato che hanno fatto silenzio stampa per concentrazione, come sai benissimo. Io quello sono delle cose che proprio non capisco, nel senso che... Non so se è peggio questo certificato della mutua, cioè, siamo una roba incomprensibile. Siamo un paese meraviglioso, vero Moreno da Treviso? Buongiorno, salve. Buongiorno. Piacere sempre ascoltarvi, complimenti per questo. Volevo portare un pensiero positivo sull'argomento del momento del VAR. Sì. Orribile. Penso che, cioè, da come l'ho vista io, vedo due aspetti fondamentali. Cioè, uno, che alla fine cosa ci toglie? Toglie niente, perché eventualmente gli errori ci sarebbero stati comunque, e la VAR aiuta a toglierne qualcuno, quindi ne abbiamo qualcuno in meno, bene così. Sì. Sicuramente non ne aggiunge. L'altro aspetto invece è quello della presunta, sempre detta, sudditanza oppure oggettività che mancava negli arbitri, quando magari in alcune partite un rigore dopo 2 minuti non si dava, al 90esimo era difficile darlo, piuttosto che se ci sono 3 rigori su una partita non venivano dati perché 3 sono troppi, magari l'arbitro adesso sarà costretto anche. Sì, morale, ma sono più tranquilli, no? Io sono d'accordo, io ti ripeto, ho parlato, a parte abbiamo sentito Marelli l'altro giorno, ma insomma mi sembra gli arbitri con cui ho parlato in questi giorni mi sembrano tutti un po', certo, più sollevati, un po' di responsabilità in meno, ragazzi. Ma voglio dire, capisco che può sembrare banale, ma sbagliamo tutti e lo so, ma lì non si può sbagliare. Io faccio un sacco di cazzate nella mia vita, ma lì non puoi sbagliare. Sbaglio i nomi dei calciatori qualche volta, posso sbagliare un dato, e la stessa cosa vale per gli arbitri, che oltretutto fanno un lavoro difficilissimo, quindi sapere che un proprio errore eventualmente ha delle conseguenze meno gravi perché può essere corretto, non c'è niente di male. Poi certo, se un arbitro, dopo 10 giornate Italia, viene corretto 4 volte a partita dal VAR, forse non è il miglior arbitro che c'è. Però voglio dire, in assoluto, per il clima, io penso che sia solamente positiva questa roba. Allora, Marco da Piacenza, ciao a tutti. Niente, io volevo dire due cose. Anche tre. Sono d'accordo sicuramente con questa VAR, però non vorrei che a lungo andare l'arbitro sia schiavizzato da questa VAR e non faccia più l'arbitro in campo. Un po' quello che stavamo dicendo. Allora, senza dubbio c'è un po' di peso in meno di responsabilità, eccetera. Dall'altro lato ci sono ovviamente delle controindicazioni. Anche lì, ripeto Marco, quello che abbiamo detto da ieri, servirà un po' di allenamento per tutti, cioè per chi guarda le partite, per chi arbitra, per chi gioca, è davvero un'esperienza nuova. Siamo su un altro pianeta, non voglio dire il primo passo dell'uomo sulla Luna, però un attimo di calma, no? Sì, assolutamente, speriamo che faccia bene. E poi voglio fare i complimenti al Napoli stasera, tifosissimo del Napoli. Complimenti domani, magari eventualmente stasera. Complimenti magari eventualmente domani, stasera in bocca al lupo, perché siamo tutti un po' scaramantici, no? Vabbè. Sì, però dico, anche se stasera con Balotelli e Snyder, il Napoli c'ha una bella struttura e se la può giocare. Ma ci mancherebbe altro, non è, con tutto rispetto, inizia una Real Madrid. Marco, grazie. Allora, ci fermiamo per il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24 è il vostro numero verde, subito dopo il traffico, di nuovo qui. I love this game. Tutti convocati. Tutti convocati. Ecco che torniamo, dunque, tutti convocati, 800 24 00 24. Vi ripeto, Pierluigi Pardo è qui con me. Allora, torniamo un attimo sul tema Inter. Andiamo un po' così random, perché domenica uno degli argomenti di discussione, quello striscione dedicato a Pioli, giustamente gradito, no? Pioli. Non mi aspettavo niente, nel senso che ero così concentrato nel preparare questa partita, questo inizio del campionato, anche se poi dopo, arrivando qua allo stadio, veramente le sensazioni, non sono un robot. Ho allenato qua fino a pochi mesi fa, lo stesso non l'ho visto, me l'hanno fatto vedere adesso in televisione, non può che farmi piacere. Sì, Pierluigi, però c'è Icardi che ha allenato lì fino a pochi mesi fa, ma lui non se lo ricorda più tanto bene. Sì, guarda la battuta un po' alla Geregnocchi che girava l'altra sera, che l'Inter continua a giocare contro Pioli, ovviamente è una battuta, nel senso che dopo... per la parte finale della stagione l'anno scorso io non penso neanche avesse giocato contro Pioli. Io penso a un certo punto si fosse semplicemente evaporato lo spirito che una squadra, lo spirito agonistico, una squadra deve avere, quindi è un problema. E l'altro giorno invece ha giocato un'ottima partita. Lo striscione mi è piaciuto, nel senso, certo, che comunque alla fine io ho questa natura qua, a me quando una storia di un rapporto fra un allenatore e una squadra finisce bene, a me fa piacere. No, ma è una mia debolezza, forse mi piace quando ci sono, quando c'è comunque, quando ci ricordo, si lascia con un sorriso. Esatto, no, ma il fatto è che vedi altri godono nel scriversi roba, anche dopo stamattina, gente che sui social si diverte a fare la guerra, contenti con loro. Ma no, lasciamo perdere, gente che continua da tutte le parti. Io non ho questa, non ce la faccio, non me ne frega niente, cioè non è che non ce la, non me ne frega niente, nel senso che mi piace vivere la vita in serenità, ecco. Sì, quindi Sai cosa? Si sono lasciati bene Pioli, cioè c'è stata sempre stima e affetto reciproco tra Pioli e i tifosi dell'Inter. Un po' meno tra, secondo me, tra Pioli e i giocatori. Tu dici, lo spirito di squadra è evacuato. Secondo me è evaporato. Clamorosamente. No, secondo me è evaporato lo spirito di professionalità dei giocatori. E continuo a pensare questo. Sì, è chiaro che quando. Allora, è sempre pericoloso fare questo discorso, perché altrimenti tu dovresti arrivare a pensare che se uno non vince è perché non si è impegnato, perché non ha lavorato bene. Ci sono poi dei casi, cioè sicuramente l'Inter dell'anno scorso nelle ultime 10 partite ha lavorato male, ma credo sia oggettivo, perché una squadra che fa così pochi punti e che gioca così male, comunque con le qualità che aveva, che non erano da vincere il campionato, ma non erano neanche quelle, beh, insomma, vuol dire che c'è qualche problema. E quindi probabilmente c'è anche un elemento forse di scarso impegno. Però bisogna sempre stare un po' attenti a questa roba qui, perché altrimenti si può passare l'idea che se non vinci, non ti sei impegnato, se non vinci sei, sei l'ultimo, è colpa tua. No, chiaro. Tutti vorrebbero vincere, alla fine vince una, non, non dimentichiamocelo. Quante volte abbiamo visto delle contestazioni pesanti nei confronti delle squadre? In qualche caso sì, sicuramente ci può essere scarso impegno da parte di qualcuno, ma in assoluto mi sembra esagerato. Senti, davanti al Milan o l'Inter? È uno degli argomenti di discussione di questo momento, presto probabilmente per dirlo. Ma presto sì, certo. Però delle cose sono successe. A me sembra che qui la nuova Milano da tutte e due le parti sia una Milano molto interessante. E credo che, insomma, ieri abbiamo parlato di cinque sorelle, non mi stupirebbe. Poi la mia sensazione è che Juve, Napoli abbiamo qualcosa in più. Se ti devo dire una terza ad occhio, così mi butto e ti dico Inter. Però stiamo parlando di un campionato che potrebbe essere più incerto di un'incollatura. Poi io, quando comincio a sentire parlare di sorelle 5, 6, 7, no, ma io l'altro giorno ho fatto la Juve alla Juventus Stadium e c'era la lista dei giocatori, e tu guardi quelli in campo e quelli in panchina e sai, poi si arrivava col clima post Lazio Juve, quindi sembrava guardi quella lista lì e dici non mi sembra indebolita la Juve, onestamente, anche se Bonucci e Dani Alves sono due giocatori importantissimi, Bonucci soprattutto, per mille motivi, dal punto di vista tecnico importante in fase difensiva, in fase di impostazione, dal punto di vista della personalità è un leader nato. E quindi, però non è che la Juve manchi di leadership, ma probabilmente la Juve ha quattro centrali secondo me di livello, forse la vera domanda è quella lì, cioè comunque Bonucci è un fuori classe, però è pure vero che l'hai venduto una cifra importante, non più giovanissimo, quindi ci sta. Da qui al 31 secondo me vedremo altro. Giorgio, intanto sentiamo Giorgio della provincia di Napoli. Buongiorno. Buongiorno a lei. Dov'è Giorgio, lei? Dove si trova? La provincia di Napoli, a casa mia. Si geolocalizzi, vede il mare? No, sono di fronte al Vesuvio praticamente. Di fronte al Vesuvio. Ha avvertito il terremoto ieri sera? No, perché diciamo siamo un po' più sotto al Vesuvio, sì. Ischia più di fronte ai Campi Flegrei. Quindi volevo dire, a proposito di questo tema, a parte il fatto, diciamo, vabbè, che il Napoli stasera vince comunque. Ah, però Napoli dà controtendenza, Sì, no, non ci sono dubbi, assolutamente. Volevo parlare un attimo appunto di Vesuvio, di queste cose qua. Praticamente stamattina su Twitter è uscito questo bel post. Un tizio del nord scrive: ed ora dopo Ischia aspettiamo il Vesuvio. Vabbè, è un coglione. Un povero pirla, ma di fronte a no, io all'imbecillità del genere umano animale, non amo i social network, e anche in queste ultime ore abbiamo visto degli esempi positivi di utilizzo dei social network che hanno dato una mano ai soccorsi, eccetera. Non starei a rincorrere queste cose, i problemi della gente. Non abbassiamoci quelli. È pieno di gente frustrata che si sfoga, è molto facile. Poi magari se lo incontri dal vivo quelle cose manco le pensa, spero che non neanche le pensi, è una forma, diciamo, è uno sfogatoio. Certo, posso capire, io non sono napoletano, io posso capire che Napoli da questo punto di vista, l'abbiamo detto tante volte, abbia una certa sensibilità, perché è una città che purtroppo è stata spesso, sì, quello sarà uno sfogatoio, però un pisciatoio pubblico è più decoroso certe volte, no, ma io dico, è anche più pulito, fra l'altro insomma, devo dire, adesso il tema, la cosa è molto semplice, cioè basterebbe fare dei tweet e delle attività social di un individuo, ma credo che ci stiano anche lavorando, un luogo, cioè qualcosa che è, diciamo, penalmente perseguibile, ma non per mandare in galera la gente, perché se fai questa roba qui vedrai che il giorno dopo nessuno, se sa che si becca un'ammenda o un'accusa, o anche semplicemente una rottura di scatole, che deve presentarsi e difendersi davanti al tribunale e un avvocato per una roba che è offensiva chiaramente nei confronti di qualcuno, dopo due giorni non lo fa più. Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio. No. Se lo fa perché lo fa, lo perché fa un tale convincimento, allora lì il problema diventa diverso. Il problema diventa psichiatrico, e quindi c'è poco da aggiungere. No, Mariano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io chiamo da Piacenza, volevo proprio aggiungermi a questo dicendo che sabato sera è stato commesso uno scempio. I tifosi del Verona, tutto lo stadio, tutti, non credo fosse tutto lo stadio, la lettura delle formazioni, dicevano per ogni giocatore che era una scimmia, per tutta la partita con i razzisti, e nessuno ha detto niente. L'arbitro, possiamo mettere il VAR quanto volete, ma questo è il razzismo. Guardi, ieri a Tiki-Taka ne abbiamo parlato, quindi sul fatto che nessuno abbia detto niente, l'ho visto ieri questa cosa in home page sul Corriere della Sera per tutto il giorno, quindi non credo, lo dico non perché devo fare 0-0, non credo sinceramente, da quello che mi è stato raccontato, che fosse tutto lo stadio. Sono alcune persone, è una cosa sbagliata perché non è chiaramente oltre qualsiasi goliardia e qualsiasi rivalità, che invece rappresenta il discorso di prima, no? Non è goliardia, è chiaramente inaccettabile ed è anche un peccato, anche perché ti posso dire che da telecronista, quando io vado a vedere l'Hellas, quando vado a commentare l'Hellas, insomma, la parte, cioè, l'Hellas ha un tifo dal punto di vista sonoro, canoro, clamoroso, cioè veramente, cioè, no, ma spiegami una cosa, è bellissimo andare a vedere le partite lì perché c'è veramente una grande organizzazione, una grande coreografia, dei grandissimi cori. Questa roba, ma qui sono una cosa tecnica che mi incuriosisce molto. Sono inaccettabili. Cioè, ma è arrivata anche la multa, credo. Quanto te ne accorgi da telecronista di questi cori? Dipende. Non c'è una regola. Nel senso che dipende dalle situazioni. Ci sono delle volte che te ne accorgi, delle volte che non te ne accorgi, delle volte che lo dici, delle volte che pensi che magari non bisogna dare pubblicità a queste forme qui. Poi il dibattito è aperto, giusto non dargli pubblicità oppure giusto dirlo, però c'è anche un effetto emulazione e quindi in fondo poi chi fa queste cose magari ha anche un suo gusto nel vedere che queste cose fanno, tra virgolette, funzionano e finiscono per essere commentate, aprono le pagine dei giornali, quindi io non lo so. Non c'è una regola generale, la regola non c'è. Poi dal punto di vista proprio della domanda che mi hai fatto tu, acustica, dipende veramente dalle situazioni, cioè delle volte che non te ne accorgi proprio. E ci sono delle volte in cui ne accorgi e ci rifletti sopra in funzione delle circostanze. No? Poi ci sono stati anche qui momenti. C'era un momento 2 anni fa in cui la discriminazione territoriale, sappiamo che aveva certe regole, quindi c'era anche un valore, se vuoi, più di notizia, nel senso che quel coro lì poteva portare a una sanzione più pesante rispetto a quella di oggi. Leggo che c'è una multa nei confronti del Verona per quello che è successo l'altro giorno. Ti dico, è un peccato perché andare a Verona a vedere le partite è bellissimo, ripeto, il clima è bello, Verona è una grande città, però certi al 99% non composta, però non si può dire quello, ma di grande nostalgia squadra, di Giulietta e Nazoccola, di ormai della preistoria. Chiudiamo con, tornando a Napoli, da Alfonso, buongiorno. Buongiorno, dottor Pardo. Come va? Salve, tutto bene, io sto tornando a Minturno a mare dalla famiglia, torno da lavoro. Minturno sì, è vicino nel Lazio. Ai miei amici di Gaeta, sì. Sì, adesso metto il pantaloncino e vado a mare. Vabbè, ma adesso proprio questi dettagli, adesso grazie, sì. Poi dopo anche l'infradito. Le volevo dire, per il fatto di domenica col Verona va bene così. Tanto comunque paragonarci agli animali non fa niente, gli animali sono meglio di noi, esseri umani. In linea di principio, okay, sì, purtroppo lo dico, non è che è un problema di una città, cioè ogni città ha i suoi problemi. Nei confronti di Napoli bisogna dire che ci vuole una sensibilità particolare, io lo dico, non mi vergogno a dirlo, io penso che Napoli, ed è una vergogna, purtroppo per una moda, per non so neanche perché, è troppo spesso vittima di queste discriminazioni che non hanno nessun significato, no, però, ma purtroppo non è il punto di Verona o di Vicenza o di Torino o di Bologna o di Roma, in ogni gruppo umano ci sono delle persone che non, e quando sbagliano è giusto dirlo, senza scomodare filosofia o massimi sistemi, però da un lato c'è esiste questo, dall'altro lato, cioè dal lato dei napoletani, anche il fatto di sottolineare una giusta offesa, secondo me scatena qualche cosa di perverso, però qui lasciamo alla sociologia, noi ci fermiamo al pallone e torniamo ovviamente a parlarne però domani. Insomma, io penso che ci sono intere generazioni di napoletani che sono cresciuti sentendosi dire, insomma, no, queste cose non vanno dimenticate, perché perché noi siamo un grande paese, siamo un sì. paese che vive della ricchezza e della diversità delle città, che vive di campanile, e questo è bellissimo. Sì. Però, con calma, no, ma ci sono anche intere generazioni di tifosi della Juventus che si sono sentiti, che si sentono dare dei ladri tutte le domeniche. Dobbiamo chiudere, obbligatorio. Ciao Pier. Ciao, spero di arrivare presto. Più o meno sono sempre qua, più o meno. Claudia Scattori, il nostro autore, Gianmarco Ferronato, in regia, saluto anche Giulio Ruccello. Ciao a tutti, sentiamo domani alle 2. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.